Mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Lunedì 14 aprile 2008, giorno delle elezioni. Parla come scrivi numero 30, è uno speciale sulle elezioni politiche italiane che si sono appena concluse e sono sotto gli occhiaie di tutti. Vedete, sentirete i risultati che rimarranno impestati e attrigati nel podcast per l'eternità, sentirete una serie di collegamenti che faremo da diverse parti d'Italia e anche da fuori Italia, da Leiden in Olanda e da qualunque altro posto le persone vogliano parlarci e mandarci parole coraggiose che in questo momento qui servono veramente. In sottofondo i Milaven con The East is Red, la cifra stilistica d'inizio di Parla come scrivi, un vagonaccio con cui ci dirigiamo in quest'anno nuovo, in quest'epoca nuova che si è chiusa. Il secolo breve forse ha avuto una piccola appendice psicologica. Mamma mia, siamo già troppo seri. In realtà stiamo molto male, io sono Strelnik. E come sempre accanto a Strelnik c'è un sociologo che cercherà di raccontarvi anche stanotte cosa significa il che, non so nemmeno io. E cosa è successo? E che cosa è successo? E poi accanto a me, alla mia destra, ed è giusto dire così... Alla mia destra. Leave. Perché ormai è una questione di destra. Che è successo? Io mi ero preparata tutto un piano di lavoro, un piano di studi per fare questo puntatone. Volevo essere più scientifica dell'Ipsos, in realtà non vi dico un cazzo. Adesso voto più, voto meno, lo sappiamo. Il succo è che il PD ha fortemente perso. Siamo intorno al... 7-8 punti percentuali, quindi diamo risultati. Allora, tempo reale, Senato 54.130 sezioni scrutate su 60.048, PD 38,2, PDL 47,1, Partito Democratico 38,2, Popolo delle Libertà 47,1. Scopriremo mai se si chiama Popolo Partito delle Libertà, non lo sappiamo, ma non fa niente. Sinistra Arcobaleno 3,2, Unione di Centro 5,7, Partito Socialista 0,9, Destra di Sant'Anchè 2,1. Camera 43.487 sezioni scrutinate su 61.062. Partito Democratico 38,1. PDL Berlusconi 46,3, Sinistra Arcobaleno 3,1, Unione di Centro 5,4, Boselli 0,9, Sant'Anchè 2,4. Questi sono i risultati da cui partiamo. Non sono definitivi, ma sono già abbastanza per farci sentire nella cacca. Tanto, appunto, punti in più, uno più, uno meno, per i grossi. Ci interessa magari vedere come va a finire lo scrutinio per la sinistra arcobaleno, perché da una parte sta al 3-1, infatti al 3-2 ce la potrà fare forse arrivare. Scusa, te ti gira il coltello nella piaga. Se l'ha detto non facci del male, cioè qui si rischia non manda nemmeno un deputato, un parlamento. Vuoi vedere che proprio fra gli ultimi 6.000 seggi scrutinati ci avanzano 0,8%, un cencio di senatore ce l'abbiamo? No, senatore è sicuro che non c'è. Senatore, è sicuro che non c'è. Quindi al massimo un parlamento, un deputato. siccome il dibattito su Skype già ferveva, allora facciamo così, io direi di farci, noi non abbiamo nemmeno una penna, ci abbiamo torte, vino, e sei anche perso, che se si vinceva sarà il core catering in questo momento, e volevo dire, facciamoci una scaletta per i primi collegamenti, perché abbiamo da collegarci subito con Faenza, dove c'è Mauro Sandrini, poi Torino, dove c'è Arsenio Bravuomo, poi è arrivato dall'Olanda. Vediamo dall'Olanda appunto Carlo Cannella da Leiden, e poi più tardi dovremmo collegarci con Pisa, anzi particolarmente con Pontedera, con il nostro Cremonini Simone. Cremone e Simone. E poi chi vuole intervenire, per esempio questo ragazzo simpatico che è sempre su Skype e che noi salutiamo, il nostro amico, non sappiamo bene di dove sia, Paolo Masselli. Invitiamo invece un'altra persona, un blogger che ha scritto anche un post oggi, anzi sabato scorso, per rilanciare la nostra trasmissione. Invitiamo anche Circo Italia, Ettore Luca, a chiamarci anche via Skype o come meglio crede lui. Poi anche ringraziamo anche, guarda, cogliamo l'occasione per ringraziare, visto che si è perso, ringraziamo anche Francesco di 8.49 che sul suo Tumblr aveva contribuito alla diffusione di questa trasmissione, che resterà intrigata nel podcast eterno che sentirete per sempre, a dirvi che nel 2008 rivinse per la terza volta. La terza volta, Silvio Berlusconi, madonna ragazzi. Allora, prontissimi ai collegamenti, io direi di andare subito a Faenza, se onoriamo. Però Faenza io non vedo lo Skype, mi dà Skype assente, quindi non possiamo fare il collegamento con Faenza. Quindi diciamo a Mauro che su Skype lo vediamo assente, non assente ma proprio scollegato. Ciao, mi dici ciao, però sei invisibile, togli lo stato di invisibile. Sì, sono qui. Togli lo stato di invisibile, perché altrimenti ti vediamo, non possiamo chiamarti. Ecco. È certo. È intelligente il ragazzo. Vediamo un po' se. Perché sono invisibile, ecco. Te l'abbiamo detto. Ecco, esatto. Te l'abbiamo detto, su, via. C'è un delay di 20 secondi, vi chiamo io. Allora facciamo così, chiamaci tu. Adesso ci stiamo per collegare quindi con Mauro Sandrini da Faenza. Aveva già iniziato una sua analisi politica, anche seria, a me mi ha fatto paura. Io credevo che il peggio dei risultati della sinistra fosse stata, e poi ce lo dirà lui, e invece ci chiama adesso lui. In sottofondo sentite sempre i Milaven. The East is Red. The East is Red, da Bochum e Milaven, da Bars Closing Down, il... Qui hanno finito la torta, e ci chiama Mauro Sandrini. Rispondiamo. Pronto? Senti? Faenza chiama Teramo. Ok, noi ti sentiamo forte e chiaro. Sei in onda Sandrini. Prima di tutto, come state? Come state? Ecco. Male, molto male. Noi si sta bene invece. Sì, perché voi siete una delle poche regioni numeri alla mano che ha fatto qualcosina. Che ha fatto? Sai che non li so i numeri dell'Emilia Romagna, cosa hanno fatto? Allora diciamo i numeri dell'Emilia Romagna. Così poi ci Sandrini, un attimo di calma però, non siamo miei femminali qui. Io credevo di sì, ma Carbonai, te sei lì o sei in Brasile? A parte il fatto che io non mi chiamo così come... Calzolai, scusi. E poi sono qui o in Brasile? Sono solo in Brasile, è un ologramma quello che sta qui presente. Perché siamo già anche noi in Brasile. Siamo tutti quanti in Brasile. Certo. Perché io volevo chiederti se mi tenevi un posto. Un posto? Un posticino. Ma per fare chi è? Ma al di là del Brasile, che non capisco bene che cosa... È perché c'è Lula in Brasile. Ah, è così, giustamente. Ma Sandrini, discutendo tra noi sociologi, Potrebbe lei, come dire, propinarci una riflessione di ordine politico o sociopolitico a riguardo di questa giornata che detta tra noi è drammatica? Se cioè, l'avete voluta, me la siete cercata, perché io ci ho pensato un pochino oggi pomeriggio. È un disastro, è un disastro. Non è che ci voleva un gran sociologo, però appunto, è un tutta resta, una insomma, Perché cosa è successo? È successo che Berlusconi ha aggregato di tutti e si è portato a casa il governo. Bertinotti ha fatto la stessa cosa e si è preso un calcio nel sedere. Allora, il processo, il metodo è lo stesso, il risultato è differente. A questo punto io chiederei l'intervento del sociologo numero uno. Cioè, tutto sull'aggregazione, bisogna anche parlare dei contenuti, però, su cosa ci si intorno a che cosa ci si aggrega. O no, mi sono intromesso io, questo era un dialogo fra sociologi che invece non prevedeva la mia presenza. No, io lascerei rispondere Streni, che aveva delle cose da dire. Eh sì, no, dicevo che appunto, no, perché ce le siamo già concordate le risposte io e il sociologo, quindi se una volta si risponde, rispondo io, una volta rispondi te, per vedere di parlare meglio tutta la situazione così come sta. E ci stanno chiamando anche in diretta a Skype in questo momento, non possiamo rispondere perché siamo già impegnati in un'altra conversazione. Io dicevo che, te dici, hanno aggregato tutti e due, uno ha preso una pedata nel sedere, l'altro ha vinto. Chi è che ha vinto? Cioè, ha vinto Berlusconi? Berlusconi ha vinto! Chi ha vinto? Sì, però, nel senso, qual è la differenza tra l'aggregazione di questi due? No, la domanda è, poiché perché quando Berlusconi fa una cazzata vince e quando la sinistra fa una cazzata perde? Ci sono delle domande. È una questione di stile, no, insomma. Pur di non fare le cose, le cazzate, preferiamo perdere piuttosto che fare le cazzate, facciamo così. Te dici che non lo sappiamo Sandrini, non lo sappiamo, questo non se volete posso cominciare con le bischerate. Ci interessava anche è un momento di domande, ma le risposte adesso non ci sono. Se lo stanno chiedendo tutti quanti in Italia, dove cazzo è questo problema esistenziale? Sicuramente c'è una cosa grossa da rifondare totalmente. Non si sa. Rifondare mi sembra una parola che allora, non è bella. Non è bella. Allora diciamo così. Rialzare non si può dire, rifondare non si può dire. Inventiamoci parole nuove, perché le parole sono importanti, come diceva. Io avrei una proposta. Aspetta, però io volevo partire dalla avrei una proposta, perché in questo paese, due giorni fa, l'Associazione Nazionale Sessuologi ha denunziato un problema gravoso e grave, che è il calo del desiderio. Sì. No, è vero, però ce l'hanno detto. Anch'io, l'ho sentita anch'io. Per cui la nuova parola chiave per quel che succederà a Bertinotti sarà erezione. Il nuovo programma politico dovrà essere fondato su questa cosa. E le donne con cui fanno? Più donne al governo nel partito dell'erezione. Nel partito dell'erezione? Sì. Ora, ragazzi, cioè, siamo messi male, Sandrini. Cioè, noi si può qualche contributo. Cioè, che ci viene a raccontare lezione stasera? E siamo precari. Sandrini, sociologo numero due, io mi domando che ci sto a fare qua, ma non soltanto al vagonaccio, sì, le sono risposte, ma che cavolo ci si sta a fare qua? Precari dell'università, precari dei sentimenti, senza alcun problema di lezione, ma con problemi di geografia. Elezione! Il passaggio epistemologico è questo, si passa dall'elezione all'erezione. Sì. In un caso hai bisogno di essere votato, nell'altro, voglio dire, puoi, fai quel che sei capace. Io la fonderei più su desideri, cioè un ritorno ai bisogni e ai desideri, però non... guarda... ma lì vince Berlusca! Su desideri! No, guarda, mi spiace, ma su una cosa hai ragione, probabilmente... Non si fa più una campagna elettorale sui temi, ma sulla come si chiama? Sull'appetibilità. Fondamentalmente i programmi elettorali e anche le le figure elettorali che ha fatto in televisione sono uguali a quelle di uomini e donne. Cioè l'importante è fare clamore, l'importante è chi ha la voce più alta, che dice più cose stupide, anche oscene, basta gridare. E questo è vero, questa è la realtà. Ed è quella realtà che noi ci siamo un po' abituati a sentire, ma il resto del mondo poi mi fa ancora schifo, perché in questi giorni mi crogiolavo con i siti stranieri e dall'estero, e poi Carlo Candela ci spiegherà meglio, sembra molto strano quello che succede qua. Ma come fate voi a non rendervi conto che è un pagliaccio? No, scusami, ma è strano pure da qua. È strano da qualsiasi parte del mondo, qualsiasi latitudine è strana. Il fatto che noi obiettivamente siamo più abituati alla pagliacciata della fase di Matrix, che entra così, sembra una cosa da Grande Fratello, e uno ormai non si scandalizza, cioè si scandalizza meno, perché tutti i giorni. Però noi ci scandalizziamo. Sì, no, io avrei una, no, avrei, sì, una, ma, avrei una domanda, avrei una, avrei una domanda per i sociologi presenti e per gli ascoltatori di Radio Catrame. Sì. Ma esiste un paese al mondo che non ha un deputato della sinistra in Parlamento? Esiste un paese al mondo di quelli cosiddetti democratici che non hanno neanche un deputato della sinistra in Parlamento? Questa è una bella domanda e ci fa entrare da questa cosa. Allora, dividiamo in due la puntata. Diciamo che una parte è: ha vinto lui, ha vinto Berlusconi, e quindi come e perché ha vinto un'altra volta per le persone che pensavano non vincesse e che quindi erano avverse. L'altra parte è il discorso che dici te, è un discorso più che riguarda la sinistra, non tanto Veltroni, ma è possibile che in una democrazia appunto occidentale, dove il Partito Comunista era 30 anni fa il secondo partito, addirittura nel 76 era diventato il primo partito, non c'abbia nemmeno una rappresentanza in Parlamento. Io volevo riprendere questa cosa anche perché il tuo intervento su Skype, prima che cominciasse la puntata, quando non stavamo registrando, diceva, c'era un pezzo che era interessante, io credevo che, forse era una provocazione, ma coglieva nel segno, io credevo che il peggio dei risultati, la sinistra, fosse stata democrazia proletaria negli anni 80, quando prendeva il 2,5%. Ti dici, adesso almeno lì c'aveva due senatori e un deputato, o due deputati e un senatore, adesso non ci abbiamo nemmeno più questo. È normale? Cioè, è così? Bisogna... Appunto, quando Monia, quando Litti diceva rifondare, o qualcuno diceva rifondare, forse non è il verbo giusto perché è già stato usato nella formulazione di un partito e di una strategia politica, però forse se la sinistra rischia di non averci nemmeno un rappresentante in Parlamento, stante la schifezza della legge elettorale che ci abbiamo avuto, dipenderà anche dal radicamento nella società, quindi da un lavoro grosso da fare nella società, o forse di ridefinizione anche della parola sinistra. A parla come scrivi nelle puntate precedenti, abbiamo tante volte, diciamo così, parlato scherzando anche sul fatto che le parole avessero un potere fondamentale e che bisogna ancora cercare parole diverse forse rispetto a quello che cerchiamo di costruire e di definire. Ecco, la sinistra adesso non c'è, se in Parlamento non c'è nemmeno un deputato, quindi non c'è nemmeno un senatore che le rappresenta, potrebbe essere anche un bene. Perché si esce fuori finalmente da questi da questi terreni della governabilità a tutti i costi, eccetera, eccetera, per rilavorare nella società. Perdonami lo sfogo, ma mi ha fatto bene, guarda, ti giuro, mi ha fatto bene. Allora, sono d'accordo. Sei d'accordo? Completamente. Meno male, grande. Ti abbraccio virtualmente, ma poi quando ci si vede anche mi faccio la barba e ti abbraccio anche per il bene. Grazie, perché io non riesco a baciarti con la barba. Va bene. Senti, Mauro, facciamo così. Io chiuderei questa prima passata del collegamento. Passiamo a un altro collegamento, magari o con Torino o con Leiden. E vediamo un attimo cosa dice, sì, facciamo, cosa dice la stampa. Esatto, guardiamo la stampa e ci sentiamo dopo, ok? Ciao, grazie. A dopo, ciao. Perché in realtà queste stesse domande che noi ci stiamo facendo se le stanno facendo sicuramente moltissime persone in Italia, giornalisti, storici, politici, ma anche penso da molte parti del mondo. E col primo articoletto che vediamo di Andrea Di Nicola da Repubblica.it. Il quadro è questo: sono passati 60 anni da quando un comunista, Umberto Terracini, firmava la carta costituzionale della neonata Repubblica. Sei decenni dopo, e per la prima volta da quando il fascismo li ha messi fuori legge, nel Parlamento italiano non siederanno né comunisti né socialisti. Il poco più del 3% preso alla Camera della sinistra, l'arcobaleno, e lo 0,9% raccattato agli eredi di Piero Nenni e Bettino Craxi, non lasceranno possibilità. A Montecitorio e Palazzo Madama nessuna targhetta adornerà le stanze dei gruppi parlamentari con i simboli del lavoro che hanno percorso tutto il Novecento. I socialisti hanno provato a fare breccia battendo la via del laicismo, della contrapposizione netta, diretta e frontale allo Stato clericale, che da Boselli in giù gli eredi del garofano indicavano come il pericolo massimo per il paese, ma non ha pagato. Gli eredi del comunismo, nelle sue varie forme, ci hanno provato a rinunciare a nome e simboli per resistere ancora una legislatura, per portare questo fardello novecentesco nella storia politica del XXI secolo, ma non è bastato. Dalle politiche del 2006, dopo 2 anni di governo, i partiti che formavano la cosiddetta sinistra radicale hanno perso il 9%. Una sconfitta di proporzioni impreviste, ha detto desolato il leader Fausto Bertinotti. Una sconfitta che lascia senza rappresentanza parlamentare non solo la sinistra storica, ma anche tutto un mondo che, prima fra Rifondazione, Verdi e Comunisti Italiani, trovava un suo riferimento nelle istituzioni. La sinistra dei comitati, dei centri sociali, dell'antagonismo, vie pacifisti che appena 5 anni fa riempivano le piazze e le strade, fermavano i treni che portavano armi dall'Iraq, che riempivano le finestre d'Italia di bandiere arcobaleno. Via i comitati del no, niente rappresentanza per i vicentini che non vogliono la base USA, né per i valigiani che vogliono fermare la TAV, che dovrebbe invadere le loro terre. E i centri sociali? Quante volte Rifondazione Verdi erano intervenuti per tenere a freno questi compagni un po' troppo esuberanti? Anche per loro niente più lacci, lacciuoli, equilibri di partito e di coalizioni da tenere insieme. Caruso tornò a casa nel suo sud ribelle, Daniele Farina al Leoncavallo di Milano. Che farà ora l'aria dell'antagonismo militante? In molti fra loro, in realtà, tirano un sospiro di sollievo. In un colpo solo, insomma, sono scomparsi la vecchia e la nuova sinistra. Ha pesato l'astensionismo, certo. Molti compagni che, piuttosto che beccarsi Berlusconi, hanno preferito turarsi il naso e votare Veltroni. 2 anni di governo con poche prede del carniere da esibire al momento della campagna elettorale. Un leader un po' appannato dagli stucchi e dagli ori di appartamenti riservati al Presidente della Camera. Pesi diversi e tutti influenti, ma resta il fatto che una stagione è finita, nel modo più brusco. Nichi Vendola, che sarà probabilmente chiamato a ricostruire dopo il terremoto e che è anche il leader più immaginifico che si agita nella sinistra, ormai extraparlamentare, lo ha detto subito a caldo. Il Novecento ci è precipitato addosso. Abbassiamo i Triad che ci forniscono il terreno sonoro e dopo questa analisi che ci ha letto Liv su questa cosa epocale, su questo secolo breve che ci ha avuto un sussuto almeno nella rappresentanza politica italiana, Abbiamo iniziato così questa puntata numero 30 di Parla come scrivi, questo speciale elezioni, la polpetta avvelenata. Poi ne riparleremo anche del perché si chiama la polpetta avvelenata quando ci ricollegheremo più tardi con la seconda volta con Faenza, con il nostro sociologo Mauro Sandrini, che ci ha parlato appunto di questa prima volta in cui non ci sarà nel Parlamento italiano, molto probabilmente, sicuramente nessun senatore, ma molto probabilmente nemmeno un deputato della sinistra. Socialisti e comunisti sono fuori. E a questo punto qui noi ringraziamo prima di tutto tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Prepariamo un altro collegamento, quindi da Torino o da Leiden. Vi ricordiamo. E poi ci buttiamo dalla finestra. Poi aspetta. Intanto mettiamoci una canzone. C'è una dei River City Townlines che si chiama Black Knight, che in italiano non sai come si traduce. Cavaliere Nero. Cavaliere Nero. State ascoltando Radio Catram 19 sulle frequenze 49 la volta. Ce l'ho ma non sono autorizzato. Autorizzano. Allora, stiamo sistemando i nostri ultimi contatti per i collegamenti. Ne abbiamo uno anche da Roma con Alessandro Bonaccorsi, l'autore di Delicato Delirio, che potete sentire qui sulle onde binarie di Radio Catrame 19. Abbiamo fatto quello con Mauro Sandrini da Faenza. dobbiamo fare anche quello con Arsenio Bravuomo da Torino, che però io non vedo più, non vedo più online. Anzi no, lo vedo, scusate, sono cieco. Arsenio, se ci senti, facci sapere te quando vuoi fare il collegamento, se vuoi chiamarci tu, altrimenti facciamo un collegamento da Roma con Gino Perso, Alessandro Bonaccorsi, che ci dirà direttamente di Trapalazzi Romani cosa si dice, cos'è successo oggi pomeriggio, che aria si respirava, che aria si sente in questi momenti. In sottofondo ci sono sempre i Milaven, il nostro sociologo è qui abbastanza sconsolato, riflette, io lo vedo in certi momenti che guarda Enze, si creano questi circuiti di riflessione profonda, sento che vengono fuori appunto anche critiche forti al sistema democratico, è come se in sottofondo si sentisse Schumpeter, Robert, sente delle parole strane, comunque è molto Schumpeter. assorto. Siamo assorti. E poi i ragazzi nati negli anni 80, nell'83, anche quelli nati negli anni 70, e cioè insomma Silvio Berlusconi è il loro pane quotidiano della politica, cioè lo hanno visto e hanno visto solo quello, e quelli nati negli anni 70 forse quando erano piccolini, anche io una ho visto volta solo quello. Ecco. 77 ho visto solo quello. E hai votato solo quello. Sì, era il 27 stato. Marzo. No, quando c'era anche lui, non è che ha votato. Era il 27 sì, marzo del 94, quando arrivò Silvio. Una giornata d'inferno. Però per gli altri, che hanno visto anche un mondo forse un po' all'imbrunire, questo sì, che però questo mondo lo hanno un po' assaporato, e vedere oggi che questo mondo ha un numero di rappresentanti pari a zero nella istituzione politica italiana e nella storia di questo paese, beh, in questo momento mi lascia delle sensazioni che sto elaborando e rielaborando, ma fondamentalmente alla sorpresa si sta sostituendo una sensazione di delusione, di sconforto totale e anche un po' di, per certi versi, anche un po' di paura. È perché fondamentalmente, cioè avere in Parlamento qualcuno che forse senza nemmeno troppo guardare ai conti pubblici, ai patti di stabilità oppure al rispetto del trattato di Maastricht, promuoveva comunque spesa sociale, incremento dei livelli pensionistici, tutele e garanzie e diritti di cittadinanza, beh, detto tra noi, veniva fuori uno spirito, quantomeno ne sortiva fuori un'impressione buona. Era un che... buon punto, era un buon, diciamo così, potere di controequilibrio, poteva essere al minimo quello, cioè poteva essere qualcosa che riequilibrava in una certa maniera il... Attenzione che ci sta chiamando... Io ti devo interrompere perché ci sta chiamando... Carlo Cannella dall'Olanda. Un attimo che abbassiamo. Buonasera. Allora, buonasera Bertì. So che siete molto tristi? Sì. Senti, allora, a noi non ci interessa fare le direzioni. Come si fa bene in Olanda? E migreremo tutti da te. Noi qui... Come si fa, tutti quanti? Guarda, la situazione è molto complicata, in quanto ci sono delle ronde che passano la notte a caccia di stranieri, in particolare gli italiani stanno sul cazzo. E qui in Olanda siamo molto bravi, siamo. No, in Europa gli italiani in assoluto sono quelli che proprio spaccano di più. Poi certo c'è una certa belligeranza con gli islamici, ma quella è un'altra storia. Ma gli italiani proprio non li possono sopportare. Allora, facciamo un piccolo riassunto. Sì. Il nostro Carlo vive da qualche anno, 2-3, in Olanda, l'Eden, graziosissima cittadina vicino ad Amsterdam, molto molto bella e vivibile, con un senso di società comunque molto più alto rispetto al nostro. Carlo, tu che fai? Rimani lì, torni da noi, vai ancora più lontano, cosa farai? L'Italia io... vista dall'alto, com'è? L'Italia vista dall'alto è bellissima, perché qua poi danno delle informazioni sull'Italia. L'Italia è uno spettacolino per gli olandesi, non soltanto a livello politico, ma anche come immagine. Le pubblicità dei prodotti olandesi sono piene di immaginette italiane, gelatai, pizzaioli, gente di strada, presi in giro continuamente, e sono veramente divertenti. Ve li raccomando. No, no. Quindi noi all'estero siamo ancora visti, cioè, pizza e fighi, cioè pizza e... La situazione purtroppo è quella che è. In Italia si starà male, all'estero si sta comunque male, perché sei italiano, è già una colpa grave, è una colpa grave, quindi non hai relazione. Cioè, non abbiamo via d'uscita, dove cazzo... Ma senti, no, senti... Qui le vie d'uscita ci sono, perché ci sono un sacco di canali, voglio dire, uno preso dalla disperazione, una soluzione la trova. Quindi si butta. Canali di acqua e canali chimici anche, quindi male che fa il tempo ti passa, insomma. E certo, certo. Ma ragazzi, ma state a casa, ma non è un problema, vedrete che passerà presto. Sì, te non ci sei. Te stai su, fa tranquillo. Senti, ma dici, che cosa di questo fatto che, di cui parlavamo fino ad adesso, no? Innanzitutto ha rivinto Berlusconi, quindi... No, perché lui diciamo che... Potrebbe essere la prima parte della cosa che si diceva fino adesso, no? Queste immaginette che vanno tanto e ci vedono così, e anche se sei italiano ti non lo vanno per te. Vabbè, oltre a questa cosa c'è questo fatto che per la prima volta da appunto dal 20, poi con il fascismo, l'Aventino, eccetera, eccetera, che in Italia non c'è una rappresentanza di sinistra nel Parlamento. Questo è il dato per chi gravita nell'area di sinistra extraparlamentare o parlamentare, un dato epocale, no? È un dato per tutti, insomma. Te cosa ne pensi di questa cosa qua? Ma forse no, io non ho mai pensato a questa cosa qua, sinceramente. Mo mi ci fai pensare. Devo, non lo so, è successo nelle ultime 2 ore. È successo 2 ore fa. La stiamo metabolizzando un po' tutti, insomma. Allora devo ancora metabolizzare, ma è un problema comunque. No, infatti, ma siccome che sappiamo che hai parecchie simpatie libertarie, ci piacerebbe sapere il parere tuo sul fatto che noi ipotizzavamo il fatto che può essere anche un bene non avere rappresentanza istituzionale e di dover rituffarsi e sporcarsi le mani nel senso più nobile nella società, senza stare a costituire partiti o stando più dentro i movimenti, costruendo più dal basso in questa... Guarda, questa era una situazione già prevedibile, ma prevista ancora prima delle elezioni di 2 o 3 anni fa, quando ci sono state, perché nel momento in cui si entra per esempio in un governo senza chiedere niente e quindi senza avere la possibilità di rispondere alle esigenze di un elettorato che è quello che è, quindi ti chiede determinate cose. Se tu non sei in grado di dargliele, se non come figure rappresentative istituzionali, Bertinotti presidente della Camera, cose che assolutamente a un movimentista, per esempio, che poi Rifondazione ad esempio è andata avanti con i movimenti perché è arrivato a un certo livello di suffragi, di rappresentanza, credo. Sì, di rappresentanza, esatto, perché evidentemente c'era, mi sembra, un sondaggio che diceva che il 90% di chi votava Rifondazione non era addirittura comunista, nel senso ortodosso del termine. Sì, quindi questo stava a significare che praticamente delle richieste questo elettorato le aveva ben specifiche e non sono state assolutamente esaudite, e quindi presentarsi in quelle condizioni era assolutamente precario, insomma, si sapeva fin da subito che non sarebbero arrivati al 4% e che quindi non avrebbero avuto rappresentanza. Sul mio personalissimo cartellino erano al 2,5%. Sul tuo personalissimo cartellino, quindi... Sì. E quindi penso che abbiano avuto qualcosa di più. Il tuo personalissimo cartellino, se lo sapevamo che esisteva prima, te lo chiedo. Il mio personalissimo cartellino fu mostrato al senatore Malabarba, sì? Prima delle elezioni appunto precedenti, quando venne ad Ascoli durante il congresso della sezione ascolana a presentare la sua mozione. Perché all'epoca ci furono 4 mozioni addirittura interne a Rifondazione, sì. c'era quella di Bertinotti, ma c'erano per esempio quella di Ferrando, c'era quella di Malabarba e ce n'era anche un'altra. E quindi la disgregazione era già in atto e quello che io potevo prevedere, che prevedevano poi praticamente gran parte delle persone che erano lì, è che si stava entrando in una fase di annullamento completo del falce e martello. E chiaramente così è stato. Ora, qui a Leiden, per esempio, c'è il partito maoista, sì, che si diverte tantissimo a scendere nelle strade, ad entrare in contatto con le persone, in una maniera molto, molto, diciamo, tra virgolette, tecnica, perché il comunismo lo porta realmente nelle strade, a cominciare dalla spugnetta per lavare i piatti con il simbolo maoista, alle occupazioni delle ambasciate indiane o brasiliane quando vanno a protestare perché in India stanno costruendo una diga e praticamente buttando via all'aria interi paesi, intere popolazioni, e lo fanno sentire, occupano le ambasciate e quindi si fanno portavoci di un progetto, di un'idea globale, mentre in Italia tutto ciò non succede. Ci siamo persi Carlo, porca miseria ci siamo persi Carlo. Un attimo soltanto che lo richiamiamo subito, voi mi sentite un po' di musica, mi richiamo. Stiamo richiamando adesso Carlo Cannella da Leiden, il collegamento si era interrotto. Intanto ci sono arrivati anche i risultati di un ridente comune della Toscana, vedremo. Suona ma non risponde Carlo, quindi... L'Olanda è lontana, L'Olanda ha tagliato lontana. Completamente i ponti anche sì. Di essere allora facciamo Italia. Così, interrompiamo la chiamata, lo sentiamo più tardi, anche andiamo se il discorso verso che Roma. Diceva... Era interessante, noi chiamiamo appunto Roma, adesso proviamo a sentire Alessandro Bonaccorsi, autore di Delicato Delirio, se ci sta ascoltando e se può rispondere. È partita la chiamata adesso, voi siete sempre su Radio Catrame 19, è lunedì 22 e non ho registrato, ah sì, ho registrato, suona, non so se sentite il suono, molto probabilmente no. Eccoci, lo sentiamo, lo vediamo addirittura, lo vediamo però... Meglio di no, perché poi ci... Però ci porta via la banda, però così, te ci vedi, però ci porta... Bisogna chiamarti in vocale, Ale. Sì, noi ci siamo, sei in diretta, però dobbiamo chiamarti in vocale e basta, perché altrimenti non... se ti chiamiamo anche in video magari porta via parecchia banda, non, ma proviamo soltanto in vocale, prova a chiamarci te in vocale. Intanto 22:16, ANSA da Roma, voto Berlusconi, ho già in testa la squadra di governo. Ecco, sa già tutto lui. Intanto rispondiamo al nostro Alessandro Bonaccorsi da Roma, rispondi. Eccoci, no, parte in automatico la chiamata video. Non so come si reggerà la banda. Non lo so. Ci siamo, ma noi ci riparte la chiamata video. Non so. Ci senti? Ci siamo. lo stesso. Intanto vado a rispondere un attimo al telefono. Grazie. Perché c'è una telefonata di mia madre. Sì. Allora, ragazzi, c'è un momento di defiance. Mettiamo la musica e si risolve questo problema. Sì. Metti la musica. Metti la musica. Non ci freghi troppa parte. Ho fermato. Ok, perfetto, perfetto. Ok, io ho fermato. Allora, noi non abbiamo disabilitato invece, quindi noi continuiamo a vederci. Io faccio vita. Oh, ok, ora disabilitato, no, no. Perfetto. Oh, adesso siamo collegati da Roma e qui parte la parte... Aspetta, aspetta. Però, da Roma intanto sappiamo che non sappiamo nulla. Perché lo scrutinio per il Campidoglio inizierà domani a partire dalle 14. Quindi dalle 14 verranno scrutinate prima la provincia di Roma e poi il comune. Quindi per la botta di romana di domani dovremo aspettare più o meno il pomeriggio. Perché tanto, non so, la domanda è questa, che è garantita a Roma? Ma da quella che arriva da questa parte anche Roma con il comune sta messo molto male. Le previsioni più felici danno un ballottaggio al massimo, giusto? Eh sì, purtroppo sì. Cioè purtroppo, non lo so. I romani dicono che non che il Rutelli, vabbè, sia il male minore, però non so bene cos'è. Tra l'altro Roma, adesso anche in centro non c'è nessuno, perché in realtà tutti i partiti sono nelle loro roccaforti. Sì. E tra l'altro è sintomatico che, vabbè, Berlusconi sia all'Eur, comunque la PDL è all'Eur. Mentre Pettinotti va scelto come sede per guardarsi i risultati e tutto, l'Hard Rock Caffè, che è in Piazza Barberini, che è Vittorio Veneto, che insomma cosa ci azzecchi con il partito di rifondazione, ma con i Verdi, per cui insomma... Cioè, non sei venuto a rompere i coglioni questa sera a fare un collegamento costruttivo, fammi capire! Io faccio un collegamento di colore, visto che non sono sociologo. No, senti, ma da Roma c'è gente in piazza che sta sbandierando... No, no, qua non. Tra l'altro il quartiere dove abito io in realtà dovrebbe essere a prevalenza di centrodestra, credo. Però no, non sento nessun rumore. Io non ho avuto in realtà la voglia di uscire, perché non avevo neanche voglia di andarmene in centro. Anche perché Roma sarà la cosa divertente sarà domani, perché probabilmente nella notte verranno messi dei manifesti, perché Roma ha questa cosa di politica in tempo reale fatta sui muri, per cui non vengono fatte multe per le affissioni non autorizzate, per cui chiunque può mettere il manifesto. Cioè, io scusami, ti interrompo, 22-26 Roma, voto Bossi, prima riforma il federalismo fiscale, no, ma questa non sapevamo. Comunque bella questa tradizione, diciamo così, da pasquinesca, no? Che usa i muri della... Bella, sì, sì, sì. Infatti adesso, vabbè, fino a oggi c'erano praticamente solo i manifesti elettorali, per cui Roma è tutta coperta di facce. Ci sono tutte queste facce che ti guardano. Io pian piano ho notato, ad esempio, all'inizio pensavamo che Zingaretti fosse down. Perché è cambiata la provincia di Roma. E in realtà ha questo sorriso un po' ebete. E siccome c'è il claim è per una scelta diversa, per cui pensavamo che fosse... Forse è che Zingaretti è un po' ritardato, magari diverso. Invece è il fratello... E quindi siamo anche politicamente scorretti stasera. Certo. Oh, considerate che noi vediamo da 3 mesi almeno la faccia di De Gregorio sui muri. De Gregorio è, vabbè, adesso è indagato in un paio di procedimenti. È ex dunque Vabbè, era l'ista di Pietro e poi adesso va girato un pochino tra, sono un po' impreciso, mi ricordo che era gli italiani all'estero e poi era adesso indagato perché Berlusconi le ha offerto, sembra, quei 300.000 euro, non per passare. Aveva accettato, sì, era questa faccia tonda da tonda che riempie bene il manifesto. Però vi volevo dare anche qualche notizia, insomma, per tirarvi un pochino sul morale. Sì. Perché insomma, allora, prima cosa ho guardato un pochino, io sono andato a votare, ovviamente ho ancora la residenza a Pisa, per cui sono andato a votare a Pisa. Mm-hmm. E, tra l'altro voto, la mia casa è a metà, cioè, in realtà sarebbe nei quartieri operai della vecchia Saint-Gobain, della vecchia Piaggio, insomma. Però in realtà per motivi di, non so, di catastro, di cose, io vado a votare invece nell'unica circoscrizione in cui vince sempre Berlusconi, addirittura al 20%. E per cui insomma è stato, tra l'altro i vicini di casa di mio padre sono entrambi della Lega, per cui sono andato a votare uscendo di casa e avendo il capolista della Lega di Pisa che mi abita sopra. E il vicino di Pianerottolo invece che... Visto che il vicino di Pianerottolo, io sono molto incuriosita da questa cosa, perché cioè, se io mi chiamo Lega Nord, immagino che i miei elettori siano del Nord, se mi chiamo Lega Sud, immagino che siano elettori siciliani o compagni. Esatto, dici... Cioè, questa Lega Nord spopola tutte le parti. La Toscana, che non è che sia sud la Toscana, però anche insomma, culturalmente, storicamente, non è che proprio sia legata a questi valori. Io ho un toscano che dice il federalismo fiscale. Qui ci sta dicendo. Ma io ti do una spiegazione. Esatto, però. Appunto, nel frattempo, via Skype, la nostra Cristina, che magari sentiamo fra un po', dall'Emilia Romagna, ci dice che tristezza, in Emilia la Lega fa il doppio dei comunisti. Esatto. E questa cosa, adesso la chiederemo a Cristina. Come è possibile? Cioè, ma anche la vecchia e grande Romagna fa questo qui? Cioè, e Sandrini, guardate, in diretta ci dice, sempre via Skype, la chat di Skype, ci dice, boss, la Lega è il nuovo partito dei lavoratori. 14 esatto. Aprile 1952, la Lega l'hanno votata i lavoratori che non ne potevano più di votare a sinistra. Così il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, siamo, ha proseguito Bossi, il partito nuovo... SIC, ce l'ho detto io, dei lavoratori. La Lega è attenta alle sofferenze della gente e delle imprese. La devolution o la involution? Ci dice. Ma, ci dice, beh, io ho un retroscena. Paola Selli ci ha mandato questa cosa, non Sandrini, diciamo che dice. Ale. In realtà, allora, loro sono il capogruppo che abita sopra, al piano di sopra. Lui è in realtà è nativo di, non mi ricordo, piemontese, per cui ha interessi. E invece il vicino di casa, semplicemente perché vanno tutti a pranzo insieme due volte alla settimana, vanno in un circolino ACI tra l'altro, tutti. Vanno a mangiare insieme e poi parlando è riuscito a convincere questo tizio che è una vecchia guardia giurata della Saint-Gobain a farli a presentarsi in lista. Semplicemente perché era bisogno di riempitivi, perché non passerà nessuno ovviamente per la Lega a Pisa, certo. Non assolutamente, quindi insomma è un po' una specie di gruppo da ribotta, ecco, mi sembra di capire la Lega a Pisa. Senti, però l'altra cosa che vi volevo dire, che è interessante, che magari vi farà piacere, è che ho scoperto nel provincia di Pisa c'è un posto dove la sinistra alternativa ha preso più del 10%. Sinistra Scobaleno ha preso più del 10%. Dov'è? Chi sono? Dove? A Buti. A Buti! Grande Buti. A Buti! Un saluto a tutti gli ascoltatori web o ascoltatori di Buti, provincia di Pisa. In Buti. Ci siamo stati pochissimo tempo fa. Sì. Il paese più all'ombra d'Europa. Di notte a Buti. Mangiare quel posticino buono della di cosa? Sì, buono. E loro stanno resistendo. Da Pacci a Buti. 10% a sinistra al Covaleo. Qui ha una visione molto più cinica. Ne ha ben ragione, anche perché è un punto di vista, pur avendo votato la sinistra al Covaleo. Dice, però vuoi mettere che belle manifestazioni che può organizzare il Fausto adesso che non c'ha più l'impegno di governo? uffi, sono già diventata cinica. E in effetti, appunto, questo contrasta, però si integra benissimo con quello che ci stava dicendo prima Carlo Cannella d'Alleiden, il fatto che comunque Rifondazione sia entrata dentro il governo precedente non chiedendo niente, o comunque appunto stando dentro, scalpitando, non chiedendo direttamente, o battendosi forse più direttamente su alcuni punti fermi e portandoli avanti. C'è stato un compromesso che ha debilitato tutti, poi la maggioranza è caduta per Mastella, Dini, eccetera, però le basi erano già minate dall'inizio. Erano già minate dall'inizio, e adesso però la situazione è quello che voglio porre anche a te, Ale, uomo di sinistra, è questa. Come si riparte? Cioè, se come riparte la sinistra, come verrà gestito secondo te il PD? Non mi pare troppo difficile. Come faresti te? Come ti sentiresti di fare te? Ecco. Ma io sono preoccupato. Facciamoci coraggio a vicenda. Ma io sono preoccupato, perché non, ovviamente non abbiamo più rappresentanze di partiti comunisti o socialisti, comunque con idee, il che forse potrebbe anche voler dire che è tempo di cambiare, insomma, che ci vorrebbe un po' rinnovamento per dal punto di vista teorico, e cosa che non è stata fatta comunque. E l'altra cosa che mi preoccupa molto è che non c'è, in Italia non c'è un partito verde, insomma, che i verdi non ci sono, e quelli che ci sono veramente diciamo ridicoli, insomma, sono secondo me tra i fautori, insomma, della sconfitta della senza arcobaleno, perché comunque ho visto che Turigliatto e il Partito dei Comunisti Lavoratori comunque insieme sono andati sopra l'1%, per cui dei voti sono scivolati lì anche della sinistra, mentre quella dei Verdi, che avevano il 2,5, proprio secondo me sono evaporati. Non, perché, e questo, insomma, a livello in Europa, credo che stiamo andando ai livelli della Grecia, del Portogallo, insomma, non abbiamo proprio sensibilità verde, c'è cioè Casini che vuole rimettere le centrali nucleari, insomma. Poi questa cosa qui mi preoccupa molto. Perché erano fuori pochi giorni prima la fine della campagna elettorale, che erano già stati individuati secondo alcuni nel programma del centrodestra 15 siti possibili per la costruzione di centrali nucleari che diventerebbero produttive o comunque fornirebbero energia tra 10 anni, comunque, perché ci vuole 10 anni per farle funzionare, e sarebbero utili soltanto per una piccolissima parte del fabbisogno energetico. Esatto, e continueremo comunque a mettere. E con tutta la pericolosità che ne viene fuori, quindi. E comunque che aumenterà anche il debito legato al fatto che non saremo in linea con i parametri di Kyoto. Esatto, esatto. E che ci sarà, quindi non saremo a livello quasi di terzo mondo. Anche se il terzo mondo, in realtà, leggevo in questi giorni che, ad esempio, in Costa Rica probabilmente nel 2020 sarà il primo paese al mondo ad emissioni zero, perché stanno facendo un processo di forestazione. Sì, dicevo che il Costa Rica diventerà probabilmente nel 2020, quando noi avremo le centrali nucleari, diventerà il primo paese al mondo ad avere emissioni zero, perché sta facendo un progetto di reinserimento, insomma, della foresta. Dall'Italia, ovvero Springfield, vi salutiamo. Esatto. E quindi vi salutiamo direttamente. Strelnik ha fatto domanda per la nuova centrale nucleare, quindi passerà la sua vita con il picchio di Homer, il picchio di Strelnik, a lavorare un bel camiciare a fiori. Comunque per i comunisti l'ultima speranza c'è, perché in Nepal sta vincendo il partito maoista, per cui. Oh. Sì, ma anche in Francia lotta comunista, la presidenziale ha preso molto, quindi sto valutando. Quindi imparate il nepalese. Sì, anche Nepal o Napal? No, anche Francia. Francia o Olanda, anche nonostante Carlo che dicesse ci sono dei mondi italiani, però io ci andrei, sì. Facciamo così, Ale, intanto chiudiamo, ti ringrazio. Certo, sì. Ciao Ale, andiamo. Sì, ciao, se rimani più tardi così o no, vedi te, chiamaci dei qualsiasi. Se sente esplodere qualche bomba, vi chiamo. Ok, perfetto. Grazie ancora, ciao Ale. E allora, e adesso andiamo, se c'è la nostra Emiliana, un attimo, dalla terra, dalla dalla terra più rossa che c'è vogliamo sentire l'Emilia, ma se c'è Cree prima, però io vi voglio, visto che ormai sono cattiva, dire due dati. Intanto che tu chiami Cree, se c'è, eccola qui, vediamo un po' se c'è. Ci sente con 20 secondi di ritardo? Sì, perfetto. Oh. Quindi tra un poco ci colleghiamo. La introduco, Cree, ascoltami, ti introduco in questo modo, con i dati della tua regione, al Senato. Intanto è tornato il sociologo, scusate, nota di colore del vagonaccio, sì, ci si riprende anche un po'. Oh. Voi dovete sapere che a un certo punto il sociologo ha avuto una chiamata sul cellulare. No, e vi dico anche cosa doveva fare, doveva, ed è giuro, perché la realtà supera, doveva consegnare un poncio qui sotto casa, quindi si è fatto tre piani a piedi di scale. Anche di più. Anche tre e tre, per consegnare un poncio. Un poncio. Extra large, oltretutto. Quindi se si già pronto, scappa in America Latina. Scappi in America Latina. Allora, noi già, mentre te non c'eri, si è attrezzato questo ulteriore collegamento con l'Emilia. Con l'Emilia, con Castelguelfo. Castelguelfo. Ah, vicino a Bologna, dove ci sono dei nostri amici che ci parlano della situazione, di come vedono la situazione loro da lì. Con una cosa particolare, perché loro hanno una specie di scappatoia. L'avevano già prevista prima, forse, però ora li senti, ora si chiamano. Però prima volevo mettere il dito nella piaga e ribadire quello che diceva la nostra Cree, che nella rossissima Emilia Romagna la Lega Nord fa il doppio della sinistra arcobaleno. I risultati sono per l'Emilia Romagna al Senato, scrutinati praticamente, manca una sezione, 4.499 sezioni su 4.450, dato aggiornato alle 22.25, quindi l'ultima sezione non farà cambiare l'Emilia Romagna al Senato. La situazione è 49,4 PD e Italia dei Valori, 36,6 PDL e Lega Nord. Specifichiamo, Lega Nord ha preso un 7,1, cioè 187.280 emiliani o romagnoli o emiliani romagnoli hanno votato per la Lega Nord. Andiamo un po' sui numeri, perché preferisco, più delle percentuali, dire proprio i numeri, cioè quanti, contiamoci, sì, quanti siamo. UDC 4,6, sinistra arcobaleno 3,8, 99.532 persone, che sono praticamente quasi, allora, la fiamma, scusate, sta al 2,1, 56.500 quasi, il PCL sta a 21.10,8, Boselli 18.10,7, per il bene comune, ma insomma, ha preso un 0,5 13.000 persone. Sinistra critica 11.504, Forza Nuova 9.300,04, quindi in Emilia la sinistra critica e Forza Nuova hanno lo stesso peso. Finisco qui. Quindi questa era la bella introduzione che lì va fatta. Introduco la mia cara amica prima del Cree, perché ti voglio bene, figuriamoci se mi stavi sul cazzo. No, Cree, ti voglio bene lo stesso, dimmi che non è vero. E allora Cree la chiamiamo, proviamo a chiamarla adesso in vocale, chiama tri i nostri rumorini. Il sociologo ha continuato il poncio. Eccoci qua, un attimo che allarghiamo in radio. Ci sta chiamando. Un attimo soltanto, che stiamo attenzione, stiamo perdendo il controllo della situazione in diretta, perché ci sono tre chiamate Skype contemporanee vocali, quindi è un casino anche gestire. Però invece adesso abbiamo abbuiato e filtrato e abbiamo in collegamento Cree e Mick, che ci parlano dalla rossa o dall'ex rossa terra delle mie. Allora, di che colore siete intanto? E che cosa è successo? Il pilastro dell'Italia, che è successo? Se la blusa è il cuore verde, voi siete il cuore rosso. Cioè, che è successo? Mamma. Siete risanguati, che è successo, Cristina? Una tragedia, come avrebbero detto a Roma. Che è successo? Ci siamo persi per strada qualcosa, evidentemente. Perché aspetta un attimo, tutti... che ti sentiamo un po' malino. Ti sentiamo, aspetta, una voce... un po' elettronica. Sì, metallica. Sì, perché si rogevo solo... Invece qui c'ha una bella voce, così si sciupa. Riprova un po'. Ma meglio? No, c'è un rumore di fondo, così... È Frattini che parla. No, adesso è perfetta. Forte e chiaro. È perfetta adesso. Ok. Cosa è successo all'Emilia? Boh, ci siamo persi per strada qualcuno. Non si è capito molto da dove sono saltati fuori tutti questi della Lega. Sono stati nascosti bene fino adesso. Ma si erano trattati abbastanza bene. Ma senti, ma ora che si fa qui? Che ti devo dire? Ah, io sono appena tornato dal cesso. Quello che sentite in sottofondo, che viene dalle profonde, remoti meandri dei bagni, è Mick. Ciao Mick. Ciao ragazzi, eccolo. Sono cazzi vostri, mo. Voi e mio cuore di coglione. E quando Mick ti dice così, ci puoi giurare che è vero. È verissimo. Ma sì, voi ne andate adesso, tanto veniamo anche noi, no? Lì da voi guarda. No, preferiamo l'Olanda magari, però scappiamo anche noi, basta. Però se tu pensi che arriviamo a questo punto dopo aver fatto un anno a lavorare in Russia, venendo presa per il culo dai moscoviti che mi dicevano di andare lì per avere una situazione politica stabile. Poi... No, dai, no, è troppo triste. Basta. Il nostro sociologo qui c'ha il cuore tenero, già ha infierito parecchio la situazione. Quando poi sente parlare così delle persone che dicono la verità perché l'hanno trovata e sanno anche che come ci vedono dall'estero, è ancora più dura, capito? Ancora più dura. Perché dice, vabbè, siamo fra noi, tanto non ci ha visto nessuno. No, ti hanno visto tutti. Globalizzazione, ti vedono tutti. E tu c'hai un bel da spiegargli, che non siamo tutti come quello simpatico italiano che loro vedevano sempre a trovare l'adorabile presidente, però... Sì, perché c'è una simbiosi, loro due, fantastica. Arthur e Putin faranno anche una tavola direttamente che va diretta lì. Senti, ma cosa ti dicevano? Cioè, cos'era strano per loro? Detto dai russi, va lì. Cos'era strano per loro? Ma per loro sostanzialmente risultava del tutto inconcepibile il fatto che non avessimo un governo stabile, perché insomma alla fin fine, vista dalla loro prospettiva, era incomprensibile. Prima di tutto che avessimo potuto votare qualcuno che non fosse Silvio già la volta scorsa, e poi che i governi non fossero messi in condizione di durare per il tempo che è previsto. Probabilmente, se la vedi dalla loro prospettiva, certo. Se hai visto, no, l'opposizione da quelle parti, come sì, va? Sì, va fine anche abbastanza brutte a volte. E se tu girelli per Mosca, no? Ti capita di vedere davvero quei simpatici signori che hanno quelle divise azzurre, che passano sotto il nome di Omon? Poi capisci perché la gente non c'ha voglia di manifestare più di tanto da quelle parti. Infatti. Sono grossettini. Infatti la cosa strana è che appunto a questo punto qui si possa dire, però quando è che Putin si compra delle televisioni anche lui? Cioè, perché il modello comunque potrebbe essere lo stesso, cioè qui la pace sociale molto probabilmente potrebbe essere garantita con appunto la polizia in piazza. Non è che anche chi ha vinto adesso ha detto la situazione è buona, eccetera, ha detto ci aspettano tempi brutti e decisioni impopolari, la situazione è questa. Per cui, ecco, al minimo accenno di contestazione sociale, penso che potrebbe venire fuori anche da noi questa cosa di persone che passeggiano per le piazze e che, se insomma, hai a volte diciamo così, il coraggio di dire no a qualcosa, ti dicono, però, insomma, cerca di stare un po' più tranquillo. Di Genova! Esatto, le prove l'hanno già fatte, insomma, in grande stile, perché in stile internazionale, però a Genova l'hanno fatte. Ragazzi, io mi ricollego un attimo a quello che diceva Alessandro Buonaccorsi, che speravo fosse una stronzata, invece è vero. Repubblica ha appena messo online delle foto della sinistra al Arcobaleno di Bertinotti che lascia, e devo dire sono l'immagine del Novecento questa. Cioè Bertinotti che lascia con i fotografi dentro l'Hard Rock Café è veramente, penso, là. L'Hard Rock Café, Dio, ce l'aveva detto Alessandro. E vederlo così è veramente la fine di un'era. Cioè sei lì e dai dimissioni dentro una catena internazionale. Certo che il Kashmir era fatica, però dici fa un po' radical chic, però veramente la droga è veramente, veramente troppo. No, non si può, ragazzi, mi dispiace, forse... Guarda, il Kashmir dentro l'Hard Rock Café ce lo potrebbe portare soltanto Kurt Cobain, però completamente sfatto, che non si rende nemmeno conto di essere dentro l'Hard Rock Café, perché non ci sarebbe... Sì, ma con la pusta di freddo che c'è lì dentro, poi lo butti ogni volta il Kashmir. Sì, no, è vero, forse... però è, forse sono foto emblematiche anche queste di cosa ma, sì, ma se pensi che qua a Imola c'era un ristorantino meraviglioso con la foto di Berlinguer, ma perché deve andare all'Hard Rock Café? Esatto, ci sono posti molto più tranquilli e più alla mano, diciamo così, meno griffati, forse meno conosciuti a livello internazionale, però in diretta ma tu ho parlato con la mamma, quindi la mamma è sempre la mamma. Sì, se in Italia va bene, se è così, va così da tanto tempo e molto probabilmente andrà sempre più così, perché basta che appunto ci sia ognuno nei suoi ruoli e si stia buonini lì, ognuno nel proprio ruolo. Ci aspettano tempi brutti. Comunque il passaporto, se io l'ho visto prima verso le 6:30, sono uscito a fare la spesa, prima ho guardato il passaporto, ce l'ho e devo far timbrare. Scusa Massi, sì, ci sei? Ci sono Mick, mi interrompo perché c'è mia madre che vorrebbe fare un commento in diretta, pensa a te. sì, che volentieri, grazie. Di questo genere, però non a questi livelli qua. Siamo un paese di imbecilli, ragazzi, rendiamocene conto, mettiamo le gambe in spalla e andiamo altrove, dove si sta meglio. Punto. Arrivata? Porca miseria, sì, è arrivata tutti insieme. La mamma ha sempre ragione. Porca miseria, ragionissima. Ah, ma giusto per dare il contesto della mamma, a casa della mamma, nel posto dove gli italiani medi c'hanno il crocifisso, loro c'hanno il poster di Lotta Continua, quindi... Infatti sì, si sentiva, ma c'è bisogno di sentire delle voci così. Guarda, non si è cominciato la puntata abbastanza disarmati, dicendo mandateci parole coraggiose. Voi forse non avete sentito l'inizio di puntata, ma avete beccato un pieno quello che si voleva dire e si voleva chiedere. Che sì, c'ha ragione completamente, dà anche forza, però detto sì. È tosta, fa male ma è tosta. Siamo un paese di imbecilli, però gambe e spalla, ha ragione, cazzo, che ci deve fermare così, che si può fermare. E grazie, si è fatto il collegamento con Skype via computer e molto probabilmente Mick e Chris ci hanno passato al telefono. Dov'è che era? Sì, era in viva voce al telefono, sì. Ragazzi, fantastico. Come i bit, le reti, impressionante. La soluzione potrebbe essere in parte anche lì, no? Potreste domandare a papà, mamma, se telefona a qualcun altro ce lo mette in viva voce. Una catena. Tipo ad all'ennesimo. E per i 6 gradi di separazione, alla quinta telefonata abbiamo direttamente Bettino e la Rocca Fresca, la delle patatine fritte. Sì, però non si vede che non va a fare culo. Ma io lo sento. Sono oro pure. Scusate, ma voi siete comunisti, quindi mi spiace per voi, però a me ride anche il culo per Bertinotti, scusa. Cosa mi ride anche il culo per il 3-2%, 3% dell'arcobaleno? Sì, niente, nulla. No, ti dicevo, era fatto per le piazze così. Ti fa la composizione di come siamo messi adesso, diciamo. Io e Cartolai che si è votato sinistra arcobaleno e Monia che ha votato Partito Democratico. Quindi se perso. No, ma guarda, mi sento già in colpa mentre al primo tratto di crocetta. No, ma qua almeno da noi, cioè, non si poteva mica fare diverso, erano calci di rigore a porta vuota, cioè, avevamo Bersani e la Finocchiaro capolista, cioè tu che. Vabbè, Bersani sì, la Finocchiaro è un uomo solo, Bersani però c'ho anche stima. Anche la Finocchiaro ci ha preso una schiaffata in Sicilia. Però, sì. Bella botta. Ci ha preso una botta in Sicilia mostruosa anche lei, quindi devo dire che la sconfitta è stata a tutto tondo. Domani Roma ci ricarica e devo dire che proprio... Beh ragazzi, almeno cioè, a voi Roma ci ricarica, a me domani mi prendono per il culo tutti i colleghi tedeschi per una mezza giornata, così siamo a posto. Qua in paese che stiamo Sì, tu in effetti sei messa peggio, perché insomma... Ma Schulz, te lo immagini il video di Schulz? Sì, sì, tu sei messa peggio, devo dire che... Mi dispiace. Pazienza. Vabbè, comunque, cioè, però vedono che... Cioè, fortunatamente se vedono Cribbi si accorgono anche che non tutti gli italiani, almeno uno delle coscorrono, non sono come il patteggiatore di Schulz. Cioè, se no, ragazzi, ci... Si può essere, è vero che ci tratteggiano, sì, però a questo punto bisogna essere anche noi che ci si fa tratteggiare più così. Come si fa non lo so, però questa cenciata lì, questa botta che si è avuto, ci deve far riflettere di molto, ma tanto. Ah sì? Ma tanto, cioè bisogna mettere in discussione tante cose. Non lo so cosa ancora bene, però bisogna fare. Questo si va sul personaggio. Tenendo però fermi alcuni valori, cioè non c'è niente da fare. Si pare di essere due settante nella sua. Esatto, il brutto è quello. Noi qua cioè, siamo l'apoteosi delle contraddizioni, perché continuiamo a voler votare a sinistra. Io lavoro per una multinazionale, mi porto in casa un lombardo che di per certo non è uno di quelli che ha votato Lega qua da noi. Stiamo con le valigie. Sbagliamo, voglio dire, alla fine. Stiamo con le valigie pronte, perché tutto sommato ce l'eravamo mezzo immaginata e di espatriare c'era venuta voglia in fretta. Questo no, cioè le contraddizioni, però qui la società complessa è normale. Scusa la tautologia, però è così. Però tieni, sì, scusa. No, questo è un'ansia importantissima. Sì. Da Buonaccorsi ci dice, fonte Corriere, che Buti è sceso all'8%, ma a Palaia esistono 67 voti della Lega! No, ma sì, a cioè, casa, vai a cercare. Allora, vabbè, però 21 voti a Forza Nuova. Ci deve dare dati, ci deve dare 21 voti a Forza Nuova. Sì, ho capito, ma il comune è 5.000 abitanti, 21 voti a Forza Nuova sono 0,1. 67 voti alla Lega. Ho capito, ma la percentuale del minus Abens ha queste percentuali nella razza umana, cioè è biologica sta cosa, c'è un certo punto quello che... picchia lì, perché nella sua vita picchia lì, se gli manca... Scusami, no... Palaia, sezioni scrutinate 6 di 6. Sì. Cioè, 6 di 6. È sulla home page del Corriere della Sera. Sono anche veloci. Sul Corriere della Sera. Ragazzi, devi chiamare il fusibile e chiedere i nomi. Sì, ora c'è un nome. No, ma fusibile, li posso sapere, Scusami. Posso sapere, con tramite fusibile posso sapere. La sinistra Comparina ha fatto 122 persone, con 4 e 2 a Palaia. La destra Fiamma di Colore 82, Boselli 36 persone, Sinistra Critica 27, Partito Comunista Lavoratori 22, Parlamento più 1 con Forza Nuova che ne ha fatti 21. Però il PD? Il PD ne ha fatti 1312. Il 45 ti ha preso? 45 e 21. 45 e 21, infatti la giunta reggerebbe uguale. Che è uguale, cioè, ragazzi, invece Buti è crollato un progetto grosso, cioè c'è una parte che è decisionosa, una parte decisionata, ora bisogna vedere, non fa cazzotti, perché sennò è brutto per tutti. La Lega è cresciuta di 20 voti dal 2006, quindi questi 20 leghisti sono in 2 anni dove li avete presi. Non lo so, ci sono le persone che vengono da tipo che votano la Lega, cioè, c'è in Toscana, ci sono state però 20 persone su 4.500, insomma, e sono quelli. Io potrei anche andare a vedere nel frattempo cosa fanno a Castelfranco, perché magari io ridiamo che ci sta da qui. Sì, si può anche vedere a Castelguelfo. Castelguelfo. Castelfranco è un'altra cosa, mi sbaglio sempre per altre missioni. Che non dice? Pervenuto. Non pervenuto. No, aspetta, Corriere che... dice esplode. No. Golpe. Ecco, adesso cominciamo a capire perché avevano messo, cioè avevamo il circolo della libertà noi qui nel paesello. Era il primo infiltrato lì. Ma non l'ha mai visto aperto nessuno, adesso è tutto chiaro, domani vedrai, ci sarà il Gran Pavese. Ma sei quello di Bologna. Vai. Sei tu. Vai. Contiamoci. 805 Popolo della Libertà. 146 riviste anche voi, con un 5. Aspetta, ma dalle percentuali, se no non ci si. 5, è più bello dire persone. 5,6. Sì, ma se si le persone in generale. No, perché poi si esce e si vanno a cercare tutti. Allora, ma se fuori Bologna, quanti siete? 4.000 qualcosa. Oh, su 4.000 facciamo anche 5. 146 leghisti, 1.200 PD, 83 di Petristi, Italia dei Valori. Unione di Centro Casini 100, Sinistra Arcobaleno 69. Grazie. 69 pari merito fiamma tricolore. Normali in Romagna. 22 Partito Socialista. 19 Partito Comunista dei Lavoratori. 13 aborto. 13 Sinistra Critica. 13 aborto? 13 sulla vita e l'aborto, qui come si chiama? Le difesa della quello di Ferrara. Andrò a cercarli e li abortirò. 13 Sinistra Critica. Ormai riesco Sinistra con la maglietta nuova di Ferrara. Ti si avvicina. Prima che ci sia riuscito a farmi i complimenti. Allora, Sinistra Critica ha fatto 13 come Ferrara, uguale, cioè uguale. Quindi anche il peso di queste cose. E Sinistra Arcobaleno? 69. Bel numero almeno. Sì, giusto. Con solo un quiz sarà divertente. Va bene, va bene. Ragazzi, grazie mille della telefonata. Grazie noi, a voi. Sì, vi si manda un abbraccio. Prima che andiate via, non vi si viene a trovare. Ok, sì, ha giudicato, così andiamo a cercare gli elettori di Castelguelfo. Esatto. Ci sa quella missione lì. Ok, un abbraccio. Un abbraccio anche a voi. Ciao. Ma voi vuoi telefonare all'amici? ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. Radio Catrame 19. He broke from them, and then he broke from himself. I'd never seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors, horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Si legge tutto di città amiche, cioè città di persone abitate da amici. Ecco, sono intervenuti degli amici, anche degli amici, anche degli amici. Tutti amici. No, tutti c'è amici, un sì. Caro amico che ci sta dando delle curiosità molto carine, tipo Poggio Domo, che sta nei pressi di Perugia, che praticamente un voto vale 1%, perché sono veramente pochini, e uno votato a sinistra al Copaleno con una percentuale dell'1,02%. Ma vi dico, com'è facile essere rappresentativi qui? Sì, sì, sì. Ma prendiamo una città a caso. Una città a caso. Senza clicco legami. Clicco a caso. San Giovanni Valdarno. Guarda un po'. Questa cittadina vicino, tra l'altro, alla città natale di Baffo. Esatto. Di Baffo. Con quale Baffo. Ci siamo collegati alla casa più, del popolo. Più e più volte. Sì, diverse volte. E del Citto di Baffo. E del Citto di Baffo. Che è venuto anche a trovarci qui negli studi di Radio Catrame. Yes. Ma vediamo che succede in questa cittadina limitrofa, come si chiama? San Giovanni Valdarno, tutto attaccato Valdarno. Sì. Diciamo che la collezione di Walter Veltroni qui ha avuto 57,56 contro il 26 di Berlusconi. Quindi sarebbe stata San Giovanni, se fosse stata l'Italia, sarebbe stata una bella Italia. Cioè, bella, meglio di quella che è. Con la Lega Nord che ha questo solo 1,45%. Casini 4,86. La sinistra Arcobaleno 4,13. Almeno ce l'avrete. Ma insomma, vediamo un po' che succede nelle parti critiche. Nelle parti critiche? E questo è il dato. Destra. No, ragazzi, mi viene male. Fiamma tricolore 2,32. Ma dove? San Giovanni Valdarno. Ok. 262 cristiani che hanno votato a Fiamma di Colore. 1,46 Boselli, 1,15 Partito Comunista dei Lavoratori, 130 persone. 64 persone hanno votato alla Sinistra Critica, 0,57. Partito Liberale Italiano, 0,52 con 59 persone. Forza Nuova, 32. E quella Unione MEDA, che non mi ricordo mai com'è l'acronimo, perché vabbè, quella lì del 32 persone, 0,28%, 29 persone Unione Democratici per i Consumatori, 28 difesa della vita, aborto, anografia, rara, insomma, tutta questa storia così, sono parenti di quelli di Palaia, 28 persone, e per il bene comune altre 28 persone. E siamo qua. E la sinistra quanto ha preso? San Giovanni Valdarno, la Toscana Arcobaleno? Rossa, 18.000 abitanti, 1.200 iscritti al PC. 466 persone hanno votato la sinistra Arcobaleno. Probabilmente questi hanno votato il Partito Democratico, con 6.132 persone, 54-41, probabilmente. Probabilmente sì. Non sono andati più giù. Ma la sinistra gli è passo uguale. Eh sì, eh sì. E dopo Alessandro continua a darci delle piccole chicche, cioè a Santa, adesso lo risentiamo Alessandro, a Santa Fiora, terra di minatori, la sinistra al 9% con 20 voti. Anche a Suvereto Bertinotti resiste con l'8%. Un 8% che gli è dato da 161 persone. Suvereto dov'è? Toscana, Livorno. Livorno, andiamo, sentiamo Livorno. Livorno città, vuoi? Sì. Sentiamo Livorno. Sentiamo i livornesi. Salvaci te, Livorno, così mandiamo. Livorno. Dopo mandiamo i lungerie, eh. I lungerie ci provincia voglio. Di Livorno, Livorno città? Livorno città. Sì. Livorno città, 24,44 il Popolo Libertà, 1,2 Lega Nord, per un totale di 25,64. La coalizione di Veltroni fa 59,18, forse è uno dei picchi più alti probabilmente, sì. Con un 54,93, quindi 55 al Partito Democratico e 4,25 dai Valori, 2,8 Unione di Centro, 5,5 la sinistra al Cobaleno. Mm-hmm. Fiamma di Colore 2,14, Partito Comunista dei Lavoratori 1,17, Sinistra Critica 0,94. Mille persone. Mille persone. Boselli 0,93, 0,36 Partito Liberale Italiano, 0,3 per il Bene Comune, 0,28 Unione Democratica per i Consumatori. E poi anche qua abbiamo 280 abortisti e 248 di Forza Nuova. Ok, Livorno. Che non gli fa paura alla sinistra, alla gente di Livorno? No, non gli fa paura, che è stata una sta polarizzazione fortissima, comunque popolare, i lungeri, l'abbiamo bisogno. Accorgo che gradisco la celebrità, talvolta mi stupisco dei saluti per la strada, sorrisi ed occhiate, mi volto di là e provo imbarazzo per la popolarità. Eppure sono popolare, ho una casa popolare, in un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, il mio cognome popolare, io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Pietra, carta, forbici, pietra, pietra, carta, forbici, spray, capelli, carta, pietra, pietra, pietra, carta, pietra. Cerco ad ogni costo uno stile originale, pratico ed imposto la mia tonalità. Per questo mi stupisco di quanto sia normale l'immagine rifletta di un soggetto popolare. Popolare, ho una casa popolare, in un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, il mio cognome popolare. Io mi sento orso polare in un mondo di zanzare, io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare. In diretta su Radio Catrame 19. State ascoltando Radio Catram 19 sulle frequenze 99.1. Good evening. Our country is strong. Our military is powerful. Ci avviamo alla fine di questa puntata numero 30 di Parla come scrivi speciale lezioni. In sottofondo ci sono i microtonner con George Second, campionate frasi di George Bush, grande amico di Silvio Berlusconi, ma guarda un po', George Second ci accompagna in questo finale quando la voce si spezza un po', perché anche noi insomma si è accusato il colpo, è inutile dirlo, si è accusato il colpo. Liv è ancora lì che si guarda le statistiche, forse per non crederci, cerca di farsi sedurre e abbindolare dalla falsa, alla fine, serietà dei numeri. Il nostro sociologo cade in degli stati catatonici che alterna invece a momenti di estrema euforia, in una schizofrenia che, diciamo, è molto preoccupante. Poi ci sono io che incasino il tutto perché litigo con Hans e con il mixer, o comunque con quello che resta. Con te stesso. No, diciamo l'ultimo numero che ormai è, lo diamo quasi sicuro al 100%, che al Senato il centrodestra si becca una maggioranza con 167 seggi su 315, quindi comunque una maggioranza che gli permette una... La governabilità discreta. La governabilità, direbbe Gaspare, la governabilità. Cioè, ci sono in realtà uno... C'avevo pure la governabilità. C'è in realtà uno scarto di 30 persone, ma noi abbiamo fatto 2 anni con 1,5, quindi con 30 puoi andare avanti una vita, esatto, se vuoi. Sì, sì, sì. E quindi... Una vita no, perché comunque una vita no, una vita no, non ce la pigli, una vita intera non ce la pigli, avrà vinto però una vita intera. No, io stanotte non dormo, ragazzi. Non dormi, eh? No, non ce la fai. Ora si fa un caffè, cosa mi mancava a me? Caffè! Caffè! Alle 11.13, no, allora, dopo, aspetta, guardiamo anche bene, 1:35 di diretta, ora noi si va a fare il caffè. Vi si saluta, se durante la notte voi ci siete o no, capace non si fa nemmeno più niente, perché stare 1:35 a rinfrancarsi ci ha fatto molto bene, però c'ha anche, diciamo così, si accusa anche la giornata. La giornata è stata... Bisogna ripartire. Da domattina si riparte. Dove si va? Dove si va? Domattina comunque abbiamo da alzarci, c'è cioè da fare delle cosette. Io devo fare la doccia. Allora, 62 mesi. Il complimento più bello che ci arriva ad Alessandro, grazie, siete meglio di Vespa. Grande. Noi abbiamo fatto la puntata solamente per evitare di guardare la serata post elettorale, perché sarebbe stata in qualsiasi caso molto brutta da vedere. Sì, e poi comunque ci ha rinfrancato. Io devo dire la verità. Serenamente, pacatamente, e devo dire che quest'ora è 36 e quasi 37 di radio stasera mi ha fatto bene, perché ho sentito delle voci che mi hanno fatto bene, che mi hanno fatto dare un po' un taglio diverso. No, è che non ci hai pensato, ci devi smanettare, dovrete quinta. Esatto, ora a che infatti si finisce, mi piglia una crisi di quelle che proprio mi diceva. Il della tua stanza adesso. Esatto, mi diceva Carlo Cannella da Leiden prima, qui ci sono tanti canali, quando uno non proprio come soluzione alternativa c'è sempre quella del canale. Però non avrete ancora bastardi. Non give up. E noi si va a pigliare questo caffè, e non c'è solo il caffè, ma noi dopo il caffè ci si fa l'ammazza caffè e dopo ancora ci si fa le peri. È vero, perché avevo detto, è giusto, non ero dimenticato questa cosa. Allora, oggi quando sono andato a fare la spesa ho detto, se va male, ok, siamo a mangiare tre, io, Liv e il sociologo calzolaio, ho preso 3 pere, quindi è andata male. Ora noi si va di là, io mangio la buccia, non la sbuccio nemmeno. Io la mangio anche io il picciolo. No, a me le pere con la buccia non mi piacciono così. Io mangio anche la buccia. Ci si fa 3 pere, proprio perché solo per stasera, poi non, le pere non si lasciano stare, però si sbuccia 3 pere. I frutti, non pensate ci si fa le spade. Ci si fa 3 pere, anche per il senso. E anche il cacio. E si piglia dopo il caffè. Il cacio c'è. C'è il cacio. No. C'è il parmigiano, reggiano. C'è il parmigiano. Un po' di mele da cacio sopra. Buono, c'è il mele. Sì, grande. Allora si riparte alla grande, ragazzi. Fatevi le pere. Vedi che cazzo l'Italia è. Cioè, stiamo piangendo miseria, poi basta un dolcino. Perché così dovrebbe essere, non dovrebbe no, essere pauperismo, no. Però bisogna. No, c'ha ragione Carlo Olanda, voi siete pizzettari. No, perché bisogna sapere apprezzare. No, bisogna sapere apprezzare anche queste cose. Luis Buñuel diceva, per essere felice mi basta un bosco di querce. È bella sta cosa lì, certo. Te dici, ci saranno le pere, sì. Il formaggio ci sa, sì. Il miele da metterci sopra, sì, ci sa. Allora cioè, perché mi rompi il cazzo a me che fa sempre tutto male? Poi c'è il bosco di pere. Perché i diritti fondamentali, come un tetto dove mangiarlo, e queste pere e il formaggio ce lo levano sempre di più. Bisogna fare i sacrifici. I sacrifici no, ragazzi. Tutto, ma i sacrifici, quando vi chiedono, fate sacrifici di te, falli te i sacrifici. Non siamo venuti al mondo per fare sacrifici. È odioso, estremi. Ecco, io ce l'ho con sacrifici. E comunque ve li chiederanno, non vi preoccupate. Noi, che si fa? Si saluta? Si saluta, vuoi salutare? Si saluta tutti quanti. Vi si ringrazia di cuore. Vi si ringrazia. Noi cari vecchi, cari vecchi, cioè noi... Cari vecchi, perché siamo vecchi e ci si intende anche noi, con voi vi si saluta e si va a farci tre pere. Ve lo possiamo assicurare. Comprate ancora non ce li siamo fatti, cioè siamo sì, no, naturali. Facciamo anche una foto con le pere, noi tre con tre belle pere. Di dove sono le pere? Dove le comprate? Quelle sono perfettamente. Sì, ma quelle non so. Sono di qua, sono di qua. Gliele hai chiesto se erano a chilometri sì, zero? Sì, sì, sì, chilometri zero. Sono di qui. Sono sicuro? Di qui. Sicurissimo. Non è che hai comprato una pera che dalla Spagna? No, no, no, no. Sulle pere va tranquilla che non mi fregano. C'ho proprio un occhio. Non ti preoccupare. E tre pere dai fruttivendolo per questa notte. Questa notte l'inizio dell'inquieto fine. Madonna di Dio. E comunque pigliatela bene, dai. Comunque c'è sempre degli altri paesi, no? Cioè... Il mondo è grande, è tutto da scoprire. Eh sì. New Orleans dei Milaven. Ora si sceglie una canzone per chiudere la puntata e si va a mangiarci il cacio o le pere. Strelnik mi invita, come al solito, a sviluppare delle riflessioni amorose e dolci e ottimiste. Ed è quella che avrei dovuto fare, e la faccio soltanto con il tono della voce, rilassato adesso, annunciando questa canzone, che è un invito ad essere ottimisti. È la pioggia che va e ritorna il sereno. Fra 5 anni però. Federico Fiumai, buonanotte a tutte e grazie a tutti veramente per averci supportato in questo giornetto. Ciao. Buonanotte. Sotto una montagna di rifiuti e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se guardate oltre lo sguardo, dietro un muro di cartone, troverete tanta luce e tanto amore. Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie di tinte di blu. È la pioggia che va e ritorna il sereno. Oh yeah, è la pioggia che va e ritorna il sereno. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo avanzeremo di più. Ma non vedete nel cielo quelle macchie dipinte di blu? È la pioggia che va e ritorna il sereno. Oh yeah,